Amici di Radio Vostok, benvenuti in questo nuovo episodio di Noi Arte. Oggi abbiamo come ospite Gaetano Corbo, attore e produttore. Ciao Gaetano, benvenuto. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, buonasera. Gaetano, io ho subito voglia di farti una domanda giusto per conoscerci e farti conoscere, ecco. Se dovessi descrivere chi è Gaetano Corbo, come ti descriveresti sotto un punto di vista artistico? Sotto un punto di vista artistico, un sognatore sicuramente, Ok. e una persona molto molto sensibile e che anche insomma nei suoi film, per dirla in terza persona, è alla continua ricerca di sensibilità. Nel senso, il mio obiettivo principale quando giro qualcosa è ricercare la sensibilità delle corde emozionali e quindi trovare qualcuno che riesce ad apprezzarla, insomma. Ah, ho capito, è una bella chiave, è una bella visione, volevo dire. Sì. Considera che noi abbiamo intervistato altri due ragazzi che pure si occupano di produzioni e per esempio il primo, Felice Santulli, ci diceva come che per lui, diciamo, la chiave di volta delle sue opere fosse l'analisi della morte, paradossalmente, mentre nel caso di Emi, che è un'altra, diciamo, figura nel mondo dello spettacolo, ci parlava del suo ricercare la tensione. Nel tuo caso è appunto la sensibilità, ma parli di una sensibilità più emotiva, una sensibilità più che vada, ecco, a muovere un qualcosa all'interno dello spettatore. Quale tipo di sensibilità, ecco, se la ricerca? Allora, come hai detto tu, Felice Santulli, se non erro, Sì. ha parlato di morte. Siccome io dico sempre che è più semplice far piangere che far ridere, in questo film che stiamo scrivendo adesso con due sceneggiatori, con due miei amici, abbiamo analizzato proprio il tema, non il tema della morte, ma del protagonista, ma la sensibilità che porta la morte nello stato emotivo della protagonista, cioè che praticamente lei è viva e per affrontare il dolore ogni settimana va sempre al cimitero, ma non va mai a trovare il marito. Ok. Questo va a trovare delle anime che non hanno nessuno, che sono dimenticate. E quindi questo, per ritornare alla sensibilità, la domanda che mi hai fatto è qualcosa proprio che muove lo spettatore e che muove se stessi proprio dall'interno, quindi è quella sensibilità delicata, quindi dove non c'è la tensione, ma c'è soltanto la ricerca di emozioni, ecco, diciamo così. Io Quindi diciamo una sensibilità legato ok al proprio stato d'animo, ma comunque forse anche a un qualcosa che si è Da vissuto. quello che sì, esatto, quello che si è vissuto e da quello che ci circonda. Ho Nel capito. senso si può ricercare la sensibilità anche semplicemente stando a una banchina del treno e vedere il treno che passa e la gente che sale, che scende, e magari ognuno se ne va con uno stato d'animo. Ok, quindi possiamo anche dire che è uno stato di ricerca praticamente. Quindi Sì, osservazione e soprattutto. ricerca. E osservazione e ricerca, questo me lo diceva sempre uno dei miei maestri, cioè se vuoi fare l'attore devi rubare, è uno dei consigli che danno a tutti, che in realtà è quello là più importante, osservare e rubare dalle persone comuni, perché il cinema è fatto da personaggi, i personaggi hanno insomma delle caratteristiche, Sì. hanno dei loro... Cioè il loro essere persona, capito? E Sì, quindi tu devi osservare da tutti e magari poi farlo tuo e metterlo in un personaggio quando serve quella cosa, cioè il clochard, l'ubriacone, il drogato, il cocainomane, lo speranzoso, il pazzo, cioè tipo quei geni pazzi artistici che però tu li vedi e dici: mamma mia, sei strano, in realtà. Strano, ma di che c'è, di che cosa? Strano da te, da noi è diverso, diciamo, da noi che ci consideriamo normali, ma alla fine, sì. chi è che può giudicare? Diciamo che questo, se non sbaglio, si va a legare anche con quella che è la ricerca e il lavoro dell'attore sul personaggio di Stanislavski, se non sbaglio. Sì, diciamo che sì, è questo, nel senso di rubare dagli altri e farlo poi tuo, e metterlo nei personaggi, e là poi c'è la riuscita, cioè nel senso il personaggio poi diventa vero e il regista ti dice, ok, adesso ti credo in quello che stai facendo, cioè ci sta, sei tu. Sì. Sei tu nel senso apportato al personaggio. E Gaetano, tu hai parlato appunto di un tuo maestro, ecco, a questo punto mi sorge spontanea la domanda, quali sono stati i tuoi primi passi? Se ti sei approcciato prima alla recitazione e poi alla regia o viceversa? Come ti sei appassionato? Sì, no, ma guarda, l'arte mi ha sempre proprio accompagnato da piccolo. Pensa, da piccolo volevo fare il cantante, questa cosa di fare il musicista, di cantare. Ho fatto anche, ho contato un aneddoto particolare, che tramite la scuola mi fecero fare feci i provini per il coro delle voci bianche del Teatro San Carlo. Ah, che Solo siccome bello. io ero un fifone, andai a fare il provino e mentre facevo questo provino e cantavo, piangevo perché mamma l'avevano lasciata fuori. Ho detto, ma oh, questa se mi lascia qua e se ne va, e io come torno a casa? Quindi cantavo e il maestro, ma no, canta, vai che c'hai una bella voce. Ti parlo di 15 anni fa, o forse di più, vai che c'hai una bella voce. Io cantavo e piangevo, e poi non volevo l'ora di uscire, dovevo andare a casa. Pensa tu, quindi è partito dal canto, il canto, il canto, il canto, no, niente. Poi Potrebbe sono essere uno andato spunto per un corto divertente, però, questo. esatto. E poi ho frequentato liceo linguistico, e che era l'unica scuola che ci faceva fare i concerti gospel nel periodo natalizio, Che e ci bello. faceva fare lo spettacolo alla fine dell'anno. E quindi là io sono andato a quella scuola soltanto perché faceva fare quello, proprio le lingue zero, cioè nel Ah, quindi senso proprio non è stato per quello. ricercavi lo Esatto, spunto ricercavo il artistico. contatto con il pubblico. Sì, sì, Ok. sì, sì. E poi dopo, quindi là ho fatto i miei primi spettacoli a teatro. E ho fatto insomma sempre il protagonista di tutte queste opere. Abbiamo fatto il Varietà, abbiamo fatto gli spettacoli di Carinelli e Giovannini. E poi dopo, da là, finita la scuola, diciamo il liceo, mi sono diplomato e poi ho studiato a Napoli 4 anni e ho fatto 2 anni a Roma. Sempre legato al E mondo la regia, dell'arte o qualcos'altro? sì, alla recitazione, Ah, sì, ho studiato perfetto. recitazione cinematografica, ho fatto un anno di doppiaggio. E poi dopo adesso si è avvicinata, cioè mi sto avvicinando, quindi la mia persona si è avvicinata alla regia, alle immagini e quindi al non voler più insomma stare davanti alla macchina, ma dietro la macchina da presa, perché sento di avere più cose da dire, cioè nel senso quella sensibilità che ti dicevo riesco più a darla attraverso le immagini piuttosto che attraverso il lavoro Ho attoriale, capito. almeno per il momento. Ho capito. Cioè, comunque la tua impronta la riesci anche a trasmettere a livello registico, ecco, non per forza attoriale. Anzi, forse paradossalmente ci può essere anche più divertimento sotto certi punti di vista, sotto un punto di Sai vista che c'è registico. Sorrentino dice sempre che c'è meno applicazione nel fare la regia perché non devi imparare il copione. Alla fine è vero, se il copione non lo impari non facendo l'attore, ma ce l'hai sempre davanti, però devi dare poi la regia al film. Però è Sì. vero che c'è meno applicazione, che non devi studiare. Invece l'attore deve fare un lavoro, deve studiare il personaggio, deve fare le prove con gli altri attori. Quindi ci vuole più applicazione. Io pure sono un po' pigro, quindi. Però una cosa che ci tengo a non specificare, appunto, a domandarti, appunto che si è parlato del discorso dello studiare, devi sapere che noi a ogni trasmissione, appunto, ogni episodio, faccio sempre il momento didattico, tra virgolette, ecco, un momento nel quale ci si avvicina di più, diciamo, ai ragazzi in fascia dai 13 ai 17 anni, ecco. Hai parlato di studio e ti faccio questa domanda. Quanto ha influenzato e quanto ti è servito effettivamente lo studio nella tua carriera? Ma proprio lo studio ti parlo anche semplicemente puramente teorico, ecco, quello sui libri. Cioè è una cosa che tu dici non mi è servita proprio, oppure dici mi ha dato una base per proseguire? Ma legato alla recitazione o Sì, in sì, sì. generale? Anche cultura. No, io Poi possa essere cultura generale. culturalmente, Sì, esattamente. no, è importantissimo. Nel senso, quello che dico io, allora ci sono molti attori. Adesso parlo Sì. del mio settore. Ci sono molti attori che non hanno studiato, non hanno studiato il metodo teorico, no? Sì. Però hanno sempre lavorato, quindi la loro scuola è stata il set. Quindi non è detto che in questo caso ci vuole per forza la scuola, perché poi la recitazione, cioè fare l'attore, io dico sempre che o ce l'hai dentro o non ce l'hai. Cioè se non lo sai fare non è che puoi impararlo. Dici deve essere una caratteristica anche una intrinseca cosa... tua. Esatto. Però devi essere intelligente, cioè nel senso anche... non mi ricordo, c'è un attore che in un'intervista disse... ma non soltanto attraverso il libro, cioè anche viaggiare è uno studio, andate al museo e studiare, guardate i film, vuol dire studiare, guardarli con attenzione. Sì. Nel senso, io delle volte studio, tra virgolette, io la regia non l'ho mai studiata, quindi se la faccio la faccio da autodidatta, da quello che ho visto fino adesso, da quello che io ho imparato quando che non sono per stato forza diretto è sbagliato da... che non per forza è sbagliato, però è tuo. E quindi se tu c'hai qualcosa da dire, senti di dover dire qualcosa, non c'è regola che tenga. Sì. Però devi avere qualcosa da dire, lo devi fare con applicazione, non è che ti metti là e lo fai. Tanto e per. Dici, va bene così perché io lo faccio. Cioè no, assolutamente, questo no. Però studiare è importante e quantomeno, e questo ecco voglio dire ai giovani di quella fascia che hai detto tu, e se è un consiglio gli voglio dare, trovate qualcosa che vi appassiona, che vi dà quella carica per alzarvi la mattina, diciamo, per andare a scuola. Trovatevi la materia che vi piace e dopo fate la vostra. Almeno dovete avere degli interessi, che possa essere anche uno soltanto, però coltivatelo, portatelo avanti, perché una vita senza interessi, cioè, è piatta, è vuota, e non vale la pena di essere vissuta, o quantomeno ci deve essere un interesse e dire io mi sveglio stamattina per fare questo, quindi che mi piace il calcio però non sto a giocarci, inventati o trovati un mestiere che ti faccia stare intorno al calcio, che può essere il telecronista, il massaggiatore, il fisioterapista della squadra, qualsiasi cosa vuoi fare, esatto, qualcosa legato al mondo del calcio. Cioè, non vedete la cosa come il calcio, come solo la partita. No, intorno alla partita ci sono 50.000 cose, e anche nel cinema è uguale. Quanta gente è partita da dire voglio fare l'attore, oggi fa il regista, oggi voglio fare il regista, fa lo sceneggiatore, e chi faceva, che ne so, il fotografo, è diventato direttore della fotografia perché attraverso il cinema ha imparato e quindi è diventato un DOP. Nel mondo dell'arte soprattutto è sempre una, come dire, cioè, ci sono sempre varie strade, non ce n'è mai una sola, perché poi in corso d'opera cambiano, e la cosa più bella è quella, esatto, la cosa più bella è quella nel mondo dell'arte. E soprattutto il fatto che non c'è un limite di età, cioè un attore può diventare, diciamo che attore si lo può affermare. È sempre, ma si può affermare anche a 60 anni. Verissimo. L'importante è avere la pazienza e starci sempre dentro e perseverare. Verissimo. Perché se nell'arte non hai la perseveranza, arrivi a un certo punto e dici vabbè, non è andata e va bene così, però poi non devi avere più rimpianti e non devi avere più rimorsi. Io, guarda, si è virato sul discorso in generale dell'arte, quindi in generale dell'arte, quindi ne approfitto per farti una domanda, forse un po' tra virgolette complicata, però è una domanda che sento molto mia e mi va di condividere con te, essendo che di base pure io comunque ho studiato recitazione, di base sono attore. La mia domanda è, secondo te, qual è la differenza, cioè cos'è che dà il valore all'arte? Cos'è che distingue magari Peppino il parrucchiere che dice ho fatto questo quadro che è una striscia rossa su una tela, piuttosto a magari l'artista che si mette lì e fa anche una striscia rossa però contornata da qualcos'altro? Personalmente penso che sia comunque il valore che va trasmesso, non bisogna che viene trasmesso, non bisogna per forza essere un grande artista affermato per poter fare arte, così come non è detto che magari un grande artista per forza riesca a trasmettere qualcosa. è la sensazione che provoca nello spettatore quello che stai vedendo. Quindi è tutta là la chiave. Nel senso, se Peppino il parrucchiere fa la striscia rossa e Clint, faccio un esempio, sì, fa una striscia rossa, devi vedere uno chi te la sa spiegare meglio e quindi ti aiuta a comprendere, ma soprattutto quella, la sensazione che ti dà nel vederlo anche dipingere, capito? Sì, se vai ad una mostra d'arte e te lo fanno davanti a te queste strisce rosse, cioè metti 10 artisti fanno una linea rossa diversa. Questa, e ognuno ti darà la propria spiegazione, la propria visione di quella linea rossa, e te la spiegheranno, e ci sarà una tra quelle 10 che ti emozionerà più di tutte le altre, però è soggettivo, perché il bello è soggettivo. Esatto, e guarda, era proprio questo il punto. Guarda, per come appunto hai parlato del discorso della sensibilità di tutto, sapevo che saresti arrivato appunto a questa conclusione del quello che ti trasmette singolarmente. Infatti mi fa molto piacere, anche perché una cosa che ripeto sempre è: l'artista di base, sì, potenzialmente può farlo chiunque, ma le potenzialità per farlo non ce l'hanno tutte, non tutti quanti. No, è vero. È vero. Ci vuole appunto sensibilità, come dicevi tu. Ma ci vuole la sensibilità per quello, per diciamo quello che ti voglio trasmettere io. Nel senso, quando tu prima hai detto, ti ho raccontato l'aneddoto del teatro, sì, che poi io piangevo, e quella è una cosa simpatica, divertentissima, che probabilmente metterò un giorno in sceneggiatura, in un cortometraggio, in un film, ma non sarà mai un film comico, perché io non sento di non poter fare la commedia, non ce l'ho la commedia nel mio, nelle corde, esatto, cioè nel, cioè, per me i film, io sono amante di film drammatici, e quindi io devo avere una sensibilità particolare per farti amare quel film, e lo spettatore di quel film deve avere, diciamo, più o meno una sensibilità, una visione della vita simile alla mia. Sì. Perché per esempio, no, ti faccio, sono usciti al cinema questi due film che sono Past Lives e Perfect Days. Sì. No? Sono due film che viaggiano su una linea, cioè nel senso, non c'è mai, non è che trovi il punto di rottura, dici oddio, mo che succede, no? In quei film dici mamma mia, è successo questo, adesso invece là no, là viaggiano secondo proprio un'autostrada, senza scostoni. Ci sono gli scostoni, ci sono i dossi, però sono sempre molto pacati. È normale che non possono piacere a tutti, cioè, perché io parlando con persone dico mamma mia no, che noia, e non gliela fa cambiare idea, perché non è il genere, e quindi lui, lo spettatore, non ha la stessa visione della vita, la stessa percezione della sensibilità in questo caso, quindi non si potrà mai arrivare a tutti. Sì, assolutamente. Arrivi a chi puoi arrivare, a chi devi arrivare, perché magari è un tuo simile, le persone si rispecchiano nei film, o si rispecchiano nei registi, si rispecchiano in un quadro, perché lo sentono proprio in base alle esperienze che hanno vissuto. Assolutamente. Cioè, per esempio, ci sono ancora oggi dei duelli, chiamiamoli duelli, no? Sul finale di How I Met Your Mother, sul finale di La La Land. Per me è giusto, in discussione, diciamo. No. Esatto, però ti perciò ci saranno sempre queste cose, questi punti di vista. Questi punti di vista differenti che vanno accettati, però poi alla fine non è detto che tu devi pensarla come la pensa l'altro, vanno accettati, dice, ok, per te è così, per me è così, beh, tutto a posto. Infatti sì. Gaetano, io ne approfitto perché tu hai detto, hai parlato anche del a dove puoi arrivare, quindi mi piacerebbe fare un attimo un excursus su due focus differenti, proprio partendo dalla frase dove vuole arrivare un prodotto, sotto un punto di vista commerciale e sotto un punto di vista personale, differenziamo. Sì. La mia domanda è: sotto un punto di vista commerciale, secondo te l'arte deve andare di pari passo alla vendita o meno? Cioè, ci sono molte persone che dicono l'arte non ha prezzo, l'arte si deve distinguere dal commerciale. Io magari sono del parere che l'arte, se può essere una grande fonte di guadagno, bisogna anche usufruire sotto questo punto di vista. Tu cosa ne pensi? Ecco, è giusto campare con l'arte? È così, Ecco, allora è giusto andare con l'arte, però l'arte costa. Film di un quarto d'ora, fare un cortometraggio costa. Non si può dire che non costi, perché le attrezzature costano, perché gli attori vanno pagati, perché tutte le figure che lavorano vanno pagate. Purtroppo ci vogliono per forza i soldi. Io non dico che uno per fare un cortometraggio, ecco, io mi devo arricchire, però non lo voglio fare neanche senza un euro. Soltanto per amore dell'arte, perché non sto lavorando solo io, non sto dipingendo un quadro. Dici, ok, però tanto sei solo tu, ti compri le tempere, dipingi, vabbè, no, perché per fare un film di un quarto d'ora c'è bisogno almeno delle volte di 12, 13, 20 persone. Sì. Ma c'è gente, gli elettricisti, i fonici, che fa quello di mestiere e quindi lavora e quindi fa una cosa per averne un'altra, quindi lavora per guadagnare. E questo è sul punto di vista cinematografico. Poi c'è quello che ti dice: ma sai, io mi faccio una tela, mi faccio un quadro per il semplice sfizio mio di dipingere. E non lo voglio rivendere, me lo tengo io nel garage perché lo voglio soltanto fare, non lo voglio manco far vedere a nessuno. Lo faccio perché mi piace, tipo come io vado a giocare a calcetto. Capito? Sì, Non voglio, esempio non posso, perfetto. non ho le potenzialità di diventare un calciatore, però io lo faccio. Cioè, vado a giocare a calcetto per divertirmi. Non è che mi pagano, io pago io, anzi, pago io tutte le settimane per giocare, non vedo l'ora, ma la cosa finisce là. Invece io il cinema, ti parlo per me, io il cinema lo voglio fare e come arte perché quello ho studiato e perché quello sento di voler fare. E anche perché ci sarà cioè un minimo di guadagno, non è che devo girare in Ferrari domani mattina, però non lo voglio fare neanche gratis. Sì, ho capito assolutamente. È giusto comunque. Cioè io ci voglio campare, ecco, diciamola così, ci voglio vivere di cinema e facendo il cinema ho trovato la mia strada per vivere la vita normale, che poi è la vita delle bollette, la vita dello sfizio della macchina, del ristorante, dei viaggi, soprattutto dei viaggi. Io sono uno che, non è, che fino al 2022 non era mai uscito dall'Italia, non avevo mai preso l'aereo. Negli ultimi 2 anni ho toccato tre nazioni diverse, ho affrontato la mia paura dell'aereo e questa è una crescita. Perciò ti dico tutto è crescita, tutto è studio e ricerca. È andare fuori, vedere altre culture, altre persone, altra gente. È Quindi importante che te lo porti dietro nel bagaglio. il tuo obiettivo, quindi possiamo dire che ritornando appunto ecco, alla divisione che avevo fatto in principio di questa singola domanda, è comunque vuoi vivere di arte Sì, io voglio e vivere di arte, sì. ho capito, che è comunque una cosa che ripeto per me ultra giusta. Gaetano, prima di salutarci, io una cosa che ci tengo tanto, appunto, essendo che comunque ti sei mostrato una persona estremamente sensibile, proprio riguardo, e poi questa parola, la sensibilità, si trova ovunque in questa puntata, ti domando. Certo, la puoi chiamare proprio, la possiamo chiamare la sensibilità. Sì, infatti. Ti domando, adesso chiudendo tutti quanti i discorsi che abbiamo fatto, ecco, se ci sta un qualcosa che vorresti dire ai nostri ascoltatori in generale, anche totalmente disconnesso da quello che è stato questo discorso, o magari collegato, se c'è un messaggio che appunto Gaetano Corbo vuole mandare al, tra virgolette, mondo. Allora, mamma mia, non mi metti in difficoltà, ma ce ne avevo tanti, però in base a delle ultime esperienze personali, insomma, che ho vissuto, mettiamoci sempre nei panni degli altri, perché anche un gesto, una parola che si dice o che si fa nei confronti di un'altra persona, bisogna starci attenti e soprattutto essere consapevoli di quello che si sta facendo, di chiedere scusa quando c'è bisogno di chiedere scusa e di vivere la propria vita al massimo, sfruttandola al massimo, perché è una sola, va vissuta e quindi ricercate la felicità, anche se non bisogna essere sempre felici, perché se uno è felice tutti i giorni vuol dire che c'è un problema, non è possibile. E che quindi soprattutto state molto attenti ad utilizzare le parole, perché le parole sono importanti. Quindi la Con con chi merita di essere trattato, tra virgolette, male, utilizzate bene le parole. Le parole sono molto importanti, anche se se le porta al vento, sono importanti. Ah, e un'altra cosa, e questa è una cosa totalmente che non c'entra niente con questo, ma che riprende il tema del viaggio: ritornate a comprare le cartoline, a scriverle e a inviarle o a portarle anche a mano, non c'è bisogno di inviarle dal posto dove siete. Se volete farlo, fatelo, però riscrivete le cartoline, perché io ho portato due cartoline a due miei amici ventenni, io sono un po' più grande, e la prima cosa che mi hanno detto è stata: è la prima volta che ricevo una cartolina, che bel regalo. Che secondo me le cartoline sono più belle, sono sottovalutatissime, sono molto più belle della calamita o ti ho preso, che ne so, la collana, il bracciale, ti ho preso questo. Dell'oggetto materiale, anche la cartolina è un oggetto materiale, ma la cartolina, se poi la conservi e fra 30 anni tu apri e dici: ah, sto Gaetano che mi ha mandato la cartolina 20 anni fa, è andato a Vienna, è andato a Parigi, è andato là e si è ricordato di me, e quelle parole resteranno scritte là, e quando le leggerai sotto con la data 10 marzo 2024, quando li trovi nel 2050 dici: porca miseria quanto tempo è passato. Dell'oggetto, l'oggetto poi si perde, cartolina resta, invece è come le foto, stampate le fotografie. Gaetano, quindi il consiglio è: stampate le foto e comprate le cartoline. che non è una cosa scontata, come dicevamo. Gaetano, io ti ringrazio tantissimo. E grazie a te, c'è la radio, è stata una bella chiacchierata. Sì, assolutamente. Un bel momento. È stato un bel momento di sensibilità e anche qualche aneddoto divertente, come le voci bianche. Come le lacrime al Teatro San Carlo. Esatto. Con mio padre che all'epoca disse: 8 anni e sei già entrato al San Carlo, io ce n'ho 40, è la prima volta che ci vado. Quella è stata una fortuna. Assolutamente. Eccola, vediamola così, quella è stata la fortuna. Quando senti un genitore e ti dice: a 40 anni non l'ho fatto, tu l'hai fatto, sei più fortunato di me, ma io sono contento perché tu sei contento di stare qua. Prima di fare il provino ero contento, poi dopo pianto. E anche buono soltanto per l'esperienza. Quindi, esatto. Gaetano, noi ti ringraziamo per essere stato qua. E grazie a voi. Amiche ed amici, noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Mi raccomando, ricordatevi che proprio oggi, come dicevo l'altro giorno,